Buonasera a tutti, inizia Hazardous Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane. Andremo con questo programma fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione, che è Hazardous Magnetics, che andrà avanti fino alle ore 21:30. Trasmettiamo in diretta dai studi di Radio Onde Furlane, come tutti i giovedì, anche oggi, 15 maggio 2025. Ricordo che il programma comunque viene condotto grazie all'intervento dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Bene, ora andiamo all'ascolto di questa band, che tra l'altro ogni tanto facciamo questo passaggio, ovvero la sigla è una band statunitense, i Behind Enemy Lines, che sono della Pennsylvania, esattamente da Pittsburgh, la cittadina, e il brano che appunto noi abbiamo estrapolato dal loro ultimo album, che tra l'altro è 20 anni fa, cioè circa il 2006 era uscito. L'album si chiama One Nation Under the Iron Fist of God, e tutto questo preambolo per dire che andiamo ora invece all'ascolto di un altro, cioè sempre di questa band dei Behind Enemy Lines, ma da un altro album precedente. La band ha fatto uscire 3 album nel giro di 5 anni circa, anzi meno, tra il 2002 e il 2006, poi la band è scomparsa. A me viene da lì, così personalmente dico peccato. E comunque dal loro secondo album, The Global Cannibal, ci ascoltiamo 1 o 2 brani sempre per questi Behind Enemy Lines, così non li ascoltiamo solamente il solito brano sigla, ma anche insomma da altri album, che sono sempre una cosa, secondo me, a mio avviso, pregiata. Comunque dall'album, come già detto, The Global Cannibal, Behind Enemy Lines. We'll be right back. Sì, un ciao a tutte e tutti quelli che ci ascoltano, sia in diretta che in podcast, che in streaming, eccetera, eccetera, sia dal Friuli, ma anche da tutti gli altri posti dove ci ascoltano. E allora, intanto oggi, stasera sono qua in parola, diciamo, sono da sola e così ho pensato di un po' strutturare un po' tutta la, tutti gli interventi su questa lettura recente, che per me è recente, la lettura di questo di questa pubblicazione, di questo opuscolo curato dalle compagne dei compagni della Val di Susa e che è appena uscito, è uscito nel febbraio del 2025, è uno scritto di Pierre Clastres, Libertà, malencontre, innominabile, cioè uno scritto che praticamente affronta l'analisi e il commento di un libro, sì, un pamphlet più che un libro, Discorso sulla servitù, discorso della servitù volontaria di Étienne de la Boétie, spero di pronunciare giusto, sicuramente sarà sbagliato, e, appunto, pamphlet che praticamente è uscito verso la fine del 1500. E, qual è il fuoco, diciamo, il fulcro di questa, di questo scritto e anche delle analisi e dei commenti di Pierre Clastres? Proprio la messa in discussione radicale della necessità dello Stato, cioè della ineluttabilità delle formazioni statali. E, ecco, sì, quindi Clastres, appunto, antropologo, lui nasce nel 34, muore nel 77 a soli 43 anni, antropologo, diciamo, l'allievo libertario di Lévi-Strauss. Sì, lui decide di studiare in maniera appassionata, insomma, e molto partecipe, le popolazioni selvagge dell'America centro-meridionale, ma non sceglie, appunto, di studiare, diciamo, le organizzazioni statali, tipo gli Inca, i Maya e gli Aztechi, ma va a studiare proprio quelle popolazioni Tupinambà, Guayaquil, Guarani, che sono popolazioni senza Stato. E appunto compie questi studi in maniera molto, molto appassionata e ne ricava delle suggestioni politiche anche per il presente. E appunto, andando a studiare poi questo pamphlet del 1500 erotti di Étienne de la Boétie, così, insomma, crea un filo conduttore, diciamo, tra il suo pensiero e il pensiero dell'autore di Discorso della servitù volontaria. E niente, allora, magari poi vediamo dove questa lettura, pensavo di leggere abbastanza, sia abbastanza dei brani, insomma, dei pezzi di questo articolo, di questo saggio di Pierre Clastres. Ecco, una cosa che volevo dire è che no, io non ho letto il Discorso della servitù volontaria direttamente, ma ho ascoltato l'audiolibro, che comunque è sì, una lettura completa, ed è molto, sì, ci sono delle cose, insomma, molto interessanti, molto molto anche emozionanti da ascoltare. E poi ci sono chiaramente anche delle cose che stridono, cioè stridono rispetto alla coscienza contemporanea, e soprattutto perché sono, appunto, legate al periodo storico in cui, insomma, questo pamphlet è stato scritto e alla mentalità dell'epoca. E di cui dopo poi magari parleremo anche di questo un po'. Ecco, e poi per concludere appunto un po' un'analisi di questo testo, un po' di letture, collegamenti vari con altre cose e alcuni aggiornamenti rispetto ad alcuni compagni detenuti. Ci tenevo a dare soprattutto un aggiornamento sulla situazione del compagno Alfredo Cospito. E vabbè, ancora un po' di musica e poi partiamo. Allora, dicevamo, Étienne de la Boétie nasce nel 1530 e muore nel 1563, quindi giovanissimo. E nasce nel Périgord, in Francia, e rimane orfano in giovane età e per questo viene allevato da uno zio prelato, che lo avvia agli studi. Quindi può studiare e poi prosegue gli studi presso la facoltà di diritto all'Università di Orléans, dove si laurea nel 53 e subito dopo, un anno dopo, accede a una carica politica, diciamo, diventa magistrato del Parlamento di Bordeaux. Qui stringe amicizia con Montaigne, appunto esponente del Rinascimento francese, che è suo coetaneo, più o meno hanno la stessa età. E diventano amici fidati poi si ammala Étienne e Montaigne diventa il suo esecutore testamentario. Allora, come carriera politica, quindi è una figura un po' così, diciamo, che non aveva niente del non è la voce del popolo, come ci dice Pierre Clastres, non è la voce del popolo, tutt'altro, fa parte della classe dirigente, diciamo, però ha questa sua tratto balengo, diciamo, tratto di personalità balenga da un certo punto di vista, e questa genialità nella costruzione del pensiero, nella, così, e nella lungimiranza anche, diciamo, nel vedere, nel collegare i concetti e gli studi. Allora, questo discorso della servitù volontaria è stato scritto, alcuni dicono che è stato scritto a 18 anni, quindi proprio da adolescente, altri un po' dopo, ma comunque sicuramente l'impianto è stato scritto quando era un ragazzo, molto giovane, e poi casomai è stato rivisto, ci dice Pierre Clastres, rivisto, diciamo, nel corso degli studi e perfezionato, ma comunque l'impianto è quello. Questo pamphlet circola clandestinamente fino al 1576, anno in cui viene pubblicato. Perché circola clandestinamente? Perché comunque Étienne de la Boétie è inviso da un certo punto di vista, cioè siamo nel periodo, diciamo, delle chiese riformate, e lui è cattolico, però non è... diciamo che è per la libertà di culto, perciò viene accusato in qualche maniera sottilmente, sotterraneamente, di essere filo calvinista, no? La variante della riforma, insomma, in Francia, e quindi viene un po' così, insomma, cioè, e poi questo pamphlet comunque ha dei contenuti anti-autoritari spiccati, e quindi viene, circola clandestinamente, appunto. Poi infine viene pubblicato, appunto, nel 1576 con il titolo di Contro uno. E allora leggo qualche piccolo pezzettino da questo libretto che mi sono tirata giù, appunto, dall'audiolibro. Madre Natura ha dimostrato che non voleva farci tutti uniti, ma tutti unici. Allora non vi è dubbio che noi siamo tutti naturalmente liberi, perché siamo tutti compagni. E a nessuno può saltare in mente che la natura abbia messo qualcuno in servitù, perché la natura ci ha messi tutti in compagnia. È vano discutere del fatto se la libertà sia o meno naturale, dal momento che non si può tenere nessuno in servitù senza fargli un'ingiustizia, e che non vi è nulla al mondo più dell'ingiustizia che sia contrario alla natura, la quale è in tutto e per tutto ragionevole. Noi siamo nati non solo in possesso della nostra autonomia, ma anche della propensione a difenderla. Le bestie gridano agli uomini, a meno che loro non facciano troppo i sordi: viva la libertà! Quando vengono catturate, non vogliono sopravvivere alla perdita della loro naturale indipendenza. Le bestie resistono, non si crogiolano nella servitù, ma languiscono se imprigionate a causa della felicità perduta. Ecco, abbiamo utilizzato anche per la promo questa frase, no? Le bestie gridano agli uomini, a meno che loro non facciano troppo i sordi, vive la libertà. Difatti Étienne sostiene molto questa roba, cioè dice, insomma, che gli animali non umani vengono tenuti, cioè obbediscono solo se obbligati a obbedire, cioè non desiderano obbedire, ma obbediscono se costretti, se sottoposti a pressione. Poi vedremo invece, gli umani invece desiderano obbedire. E ci dice ancora Étienne: la prima ragione della servitù volontaria è l'abitudine. Gli uomini sono servi perché sono educati alla servitù e abituati. Servono volentieri perché nascono servi e sono educati e cresciuti come tali. Allora, quindi diciamo che a causa di questa abitudine alla servitù, di questa abitudine all'obbedienza, gli umani perdono questa propensione a difendere la propria libertà e la propria autonomia. Ecco, questi erano così dei pezzetti, insomma, così trascritti dall'audiolibro. Allora, vediamo che cosa ci dice Cluster. Beh, intanto va detto che di Cluster, ho detto che studia appunto queste società senza Stato, sceglie di studiare le popolazioni senza Stato e praticamente Cluster ci dice: le società primitive sono società senza Stato perché sono società che rifiutano lo Stato, società che sono contro lo Stato, il che significa che l'assenza di una struttura statale nelle società primitive non è una mancanza, cioè non è una questione di incompletezza, diciamo, o di mancata evoluzione, perché diciamo un certo tipo di storiografia parte da questo presupposto, no? Le società che non hanno lo Stato, cioè le società primitive, sono quelle tra virgolette inferiori, cioè hanno un grado di evoluzione inferiore alle società evolute e pertanto non conoscono le strutture statali per questa ragione. Invece Cluster rovescia la roba, dice: no, non è che il fatto di non avere lo Stato non è una mancanza, ma queste società si strutturano, gravitano attorno a strategie scientemente organizzate per prevenire l'insorgenza dello Stato. Le società primitive, ci dice Pierre Cluster letteralmente, sono proprio delle società che impediscono la differenza gerarchica. Allora, che cosa, quali sono, diciamo, che conclusioni trae? Lui dice: lo Stato, lungi dall'essere lo strumento di dominio di una classe, è ciò che attraverso la privatizzazione del potere genera le classi. Quindi la fonte, diciamo, dell'oppressione è proprio lo Stato, perché attraverso la nascita dello Stato, e poi ci dirà lui anche e di conseguenza della storia, vengono generate le classi, viene generata appunto chi domina, il dominatore e il sottomesso, il potere che si esercita e chi subisce, diciamo, le conseguenze di questo potere. E poi ci dice ancora: se la vocazione di ogni macchina statale è di espandersi e al limite di diventare planetaria, se le società con Stato sono dalla parte della crescita, dell'unificazione, dell'uno, le società primitive sono dalla parte del piccolo e del multiplo, sono società senza eccedenza, non saccheggiano l'ambiente, non accumulano e non producono oltre i bisogni. Difatti, in questi scritti, mi riferisco specificamente alla società contro lo Stato, ricerche di antropologia politica, Cluster descrive anche questa poca propensione al lavoro, no, di queste popolazioni, perché il lavoro, cioè questa diciamo espandersi del tempo libero, in quanto il lavoro viene praticato per soddisfare i bisogni e quindi per vivere bene, non per appunto accumulare, e non essendoci sfruttamento di una classe sull'altra, il lavoro non serve nemmeno a far accumulare al padrone, perché il padrone non c'è. E poi appunto Cluster dice, cioè deduce da tutti questi studi, lo Stato è un'invenzione recente e come tale può essere superato, non è una condizione appunto ineluttabile, come si diceva prima. Allora, non so se forse parlo da un po', magari facciamo ancora una pausa e poi entriamo proprio in merito all'intervento di Cluster su Etienne de la Boetie. Okay. Ecco cosa ci dice Pierre Clastres del pamphlet Discorso della servitù volontaria. Non capita spesso di incontrare un pensiero libero come quello di Étienne de la Boétie, un giovane ancora adolescente, che fosse il Rimbaud del pensiero, audacia e serietà di un interrogativo evidentemente accidentale. E poi ci dice quanti malintesi dopo il contruno dei riformati, appunto, si riferisce a questa prima edizione del 1576. Ma non è certo il rimando a un qualche determinismo storico che riuscirà a sterilizzare la virulenza sempre attiva del suo discorso della servitù volontaria. La storia locale momentanea è appena uno spunto, un pretesto. In lui non c'è niente del polemista, del pubblicista, del militante. Il suo attacco ha una portata ben più vasta. La domanda che pone è totalmente libera, in quanto è assolutamente affrancata da qualsiasi territorialità sociale e politica. E proprio perché è una domanda trans-storica, noi siamo in grado di capirla. Com'è possibile, si chiede la Boétie, che i più obbediscano a uno solo e non solo accettino di obbedirgli, ma lo servano e non solo lo servano, ma lo vogliano servire? La possibilità stessa di formulare una domanda così devastante rimanda in modo semplice ma ardito a una logica degli opposti. Se sono capace di stupirmi del fatto che la servitù volontaria sia la costante comune a tutte le società, la mia, come tutte quelle di cui leggo sui libri, è perché io immagino l'opposto di una tale società. Per il fatto stesso di stupirsi, di rifiutare l'evidenza naturale, il giovane la Boétie trascende tutta la storia conosciuta per affermare altro è possibile. Quindi è possibile pensare a una società senza la divisione tra dominanti e dominati. Per un certo verso, gliene importa poco del destino del popolo finché questo non si ribella, il che spiega come l'autore del discorso della servitù volontaria possa essere nello stesso tempo un funzionario dello Stato monarchico, e dunque farne un classico del popolo è semplicemente ridicolo. La sua scoperta, grazie a questo slittamento fuori della storia, è per l'appunto che la società in cui il popolo vuole servire il tiranno è storica, non è eterna. Non è sempre esistita, ha una data di nascita e dunque deve essere successo qualcosa perché gli uomini precipitassero dalla libertà alla servitù. E cita dal discorso della servitù volontaria. Qual è questo malencontre, questo accidente, diciamo, questo tragico evento, questo malaugurato accidente? Qual è questo malencontre che ha potuto snaturare a tal punto l'uomo, l'unico essere nato propriamente per vivere libero, da fargli perdere la memoria del suo primo stato e il desiderio di riacquistarlo? Malencontre, tragico evento, malaugurato accidente, i cui effetti si amplificano al punto da cancellare il ricordo del prima, al punto da sostituire al desiderio di libertà l'amore per la servitù. Egli afferma che quel passaggio dalla libertà alla servitù fu senza necessità, che la divisione della società tra chi comanda e chi obbedisce fu accidentale. Quello che viene qui individuato è proprio il momento della nascita della storia. Quella rottura fatale che non avrebbe mai dovuto verificarsi, quell'evento irrazionale che noi moderni chiamiamo nascita dello Stato. In questo precipitare della società nella sottomissione di quasi tutti a uno solo, la Boétie coglie il segno ripugnante di un decadimento. L'uomo nuovo, prodotto dall'incomprensibile malaugurato accidente, non è più un uomo e nemmeno un animale, perché non si possono adattare a servire le bestie senza che manifestino un desiderio di libertà. Quell'essere al quale è difficile dare un nome è snaturato. Perdendo la sua libertà, perde anche la sua umanità. L'enigmatico malencontro da cui prende origine la storia ha snaturato l'uomo proprio istituendo nella società una divisione tale da bandirne la libertà, che pure è consustanziale all'essenza prima dell'uomo. Il segno e la prova di quella perdita della libertà si ritrova non solo nella rassegnazione alla sottomissione, ma in modo ancora più evidente nell'amore per la servitù. Da questa distinzione tra società della libertà e società della servitù risulta che ogni società divisa è una società della servitù. La Boetie non indaga la psicologia, ma la meccanica, gli interessa il funzionamento delle macchine sociali. Non c'è un graduale passaggio dalla libertà alla servitù, nessuna fase intermedia, nessuna configurazione sociale equidistante dalla libertà e dalla servitù, solo il brutale malencontro che fa precipitare il prima della libertà nel dopo della sottomissione. A causa di questo malencontro avviene così la nascita della storia, la divisione tra buona e cattiva società. È buona la società nella quale l'assenza di divisione assicura il regno della libertà, è cattiva la società il cui essere diviso consente il trionfo della tirannia. La divisione non è una struttura ontologica della società, di conseguenza prima dell'infausta comparsa della divisione sociale, essa si manifestava necessariamente in conformità alla natura umana, come una società senza oppressione e senza sottomissione. Allora ci dice Pierre Clastres quello che questo autore del 1530 e quello che è, insomma, della metà del 1500 non poteva, diciamo, sapere, noi contemporanei invece siamo ora in grado di acquisirlo come conoscenza empirica, non più per deduzione logica, bensì per osservazione diretta. E questo avviene perché questo è possibile perché esiste l'etnologia, no? Esistono anche studi specifici. L'etnologia, ci dice Pierre Clastres, aspira prioritariamente a conoscere le società che precedono il malencontre, selvaggi che precedono la civiltà, popoli che precedono la scrittura, società che precedono la storia. Difatti, l'oggetto privilegiato, se non esclusivo, dell'etnologia sono proprio le società senza Stato. E poi appunto ci dice: l'assenza dello Stato, un criterio interno dell'antropologia, implica la non divisione di quell'essere, cioè l'essere delle società, l'esistenza, insomma, delle società primitive, non nel senso che la divisione preesisterebbe all'istituzione dello Stato, ma nel senso che è proprio lo Stato a introdurre la divisione, a esserne il motore e il fondamento. Le società primitive sono egualitarie, si dice un po' impropriamente. Con questa frase si enuncia il fatto che le relazioni tra gli uomini sono relazioni tra uguali. Quelle società sono egualitarie perché ignorano la diseguaglianza. Cioè, nessun uomo vale di più o di meno di un altro, non ci sono superiori e inferiori. In altre parole, nessuno può più di un altro, nessuno detiene il potere. E la diseguaglianza ignota alle società primitive è quella che divide gli uomini tra chi detiene il potere e chi è assoggettato al potere, che divide il corpo sociale tra dominanti e dominati. E poi, vabbè, Clastres ci parla di questa istituzione, diciamo, dei popoli senza Stato, delle popolazioni senza Stato, appunto, cioè l'esistenza di una sceferie, di un capo, tra virgolette, di un capo tribù, che però è un capo che non comanda, cioè che non può più di qualsiasi altro mezzo, non può sfruttare il lavoro degli altri, non può possedere, diciamo, avere dei possedimenti più di qualsiasi altro membro della comunità. Lo Stato, invece, in quanto divisione sociale istituita in un alto e in un basso, è l'ambito in cui si esplicano le relazioni di potere. Detenere il potere equivale a esercitarlo. un potere che non si esercita non è potere, ma solo apparenza. Ecco, e quindi insomma, continua questa riflessione su questa, sullo Stato come estensione della relazione di potere e approfondimento sempre più marcato della diseguaglianza tra chi comanda e chi obbedisce. E poi ci dice che nel pamphlet discorso della servitù volontaria c'è tutta una carrellata sulle varie forme anche, no, statali, le varie forme di dominio statale. Ci dice Cluster, tutto sommato, tutte le forme di dominio statale appaiono equivalenti da questo punto di vista, cioè da questo punto di vista del principio dell'esistenza, dell'instaurarsi di un regime di dominanti e dominati. Ci dice Cluster, una volta verificatosi il malencontre, una volta perduta la libertà che governa naturalmente le relazioni tra pari, il male assoluto si manifesta con gradazioni diverse. Esiste una gerarchia del peggio e lo Stato totalitario, nelle diverse configurazioni contemporanee, è lì a ricordarci che, per profonda che sia, la perdita di libertà sembra non toccare mai il fondo, non si finisce mai di perderla. Cioè il fatto che non ci sia mai un fondo alla perdita di libertà e che non si finisca mai di perderla, e io penso che lo stiamo vivendo anche noi in questa nostra contemporaneità proprio del qui e ora. Allora, poi ci dice Cluster, il discorso pone esplicitamente due serie di interrogativi. Perché l'uomo si è snaturato? Perché la divisione si è installata nella società? Perché ha avuto luogo il malencontre? E poi, come mai gli uomini insistono nel loro stato snaturato? Come mai la disuguaglianza si riproduce continuamente e il malencontre si perpetua tanto da apparire eterno? Queste domande riguardano quindi l'origine dello Stato. Da dove nasce lo Stato? Significa quindi chiedersi la ragione dell'irrazionale, rovesciare il caso in necessità, in una parola cancellare l'evento sciagurato e fortuito. Le domande sono legittime, ma le risposte impossibili. E in effetti nulla consente alla Boetie di dar ragione dell'incomprensibile. Perché gli uomini rinunciano alla libertà? E invece egli tenta di rispondere al secondo interrogativo. Come mai la rinuncia alla libertà può essere permanente? È questo il principale scopo del discorso, dare una risposta a questo interrogativo. Ma è questo anche che rende proficuo ragionare in questi termini, perché ci permette anche di opporci alla permanenza di questa rinuncia alla libertà. La perdita della libertà non può non esercitare i suoi effetti sulla stessa natura umana. L'uomo è snaturato, modifica la sua natura, evidentemente non acquista una natura angelica. Lo snaturamento non lo eleva, ma lo abbassa, è una regressione. Di qui la necessità di una nuova antropologia, appunto. L'essere umano non diventa con questo snaturamento né angelo né bestia, né al di qua né al di là dell'umano. L'uomo snaturato è letteralmente innominabile. Prima di affrontare di proseguire cercando anche di parlare dell'alienazione, magari mettiamo ancora un po' di musica. Yeah. siamo sempre su Zardins Magnetics, programma radiofonico curato dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste. Trasmettiamo in diretta da Radio Onde Furlane da Udine. Radio Onde Furlane ci ospita, questa è una trasmissione autogestita, e stiamo parlando di questo scritto di Pierre Clastres del 1976, Libertà, malincontri, innominabile, e che è un saggio sul discorso della servitù volontaria di Étienne de la Boétie. Perdonatemi la pronunciazza brutta del nome. Allora, gli uomini obbediscono non perché costretti o forzati, non sotto l'effetto del terrore, ma non per paura della morte, ma volontariamente. L'uomo snaturato sarebbe ancora umano perché sceglie di non essere più un uomo, cioè un essere libero. Allora, l'uomo snaturato è snaturato, ma è ancora libero perché sceglie l'alienazione. Lo snaturamento successivo al malincontro genera un uomo nuovo in cui la volontà di essere libero cede il posto a quella di essere servo. Il popolo, quasi fosse vittima di un sortilegio, vuole servire il tiranno, e dato che non è una scelta deliberata, questa volontà rivela la sua vera identità, il desiderio, quindi il desiderio di sottomissione. Quindi, ci dice Pierre Clastres, qui abbiamo a che fare con la natura umana, il che solleva il seguente interrogativo: il desiderio di sottomissione è innato o acquisito? È preesistente al malincontro che gli ha permesso di manifestarsi? Oppure è spuntato ex nihilo proprio in concomitanza del malincontro, come una ferale mutazione restia a qualsiasi spiegazione? E poi, appunto, Clastres ci dice, sì, ma quindi in qualche misura, se c'è questo desiderio di sottomissione, ci può essere in una condizione snaturata, umana snaturata, si crea questo desiderio, sì, questo desiderio di dominazione, ma anche questo desiderio di sottomissione che diciamo che fonda poi, che dà la possibilità di manifestare, di prendere piede, insomma, al desiderio di dominio. Lui dice, sì, però allora se è il desiderio bisogna capire cosa si può fare, e ritorna alle società senza Stato e dice, come operano le società primitive per impedire la disuguaglianza, la divisione, la relazione di potere? Come fanno a evitare il malincontro? Infatti, ribadiamolo, se le società primitive sono società senza Stato, non è per una incapacità congenita a raggiungere l'età adulta, il cui marchio sarebbe la presenza dello Stato, ma al contrario, perché rifiutano quella istituzione, ignorano lo Stato, perché non lo vogliono. Società del rifiuto di obbedienza, ecco cosa sono le società primitive. Il rifiuto della relazione di potere, il rifiuto di obbedienza, non è una questione psicologica, diciamo, non è, come credevano missionari ed esploratori, un tratto del carattere selvaggio, ma l'effetto a livello dei singoli individui, dei meccanismi sociali, il risultato di un'azione e di una decisione collettiva. Quindi i popoli senza Stato mettono in atto delle azioni per evitare che lo Stato si crei e per evitare che si crei la divisione tra dominati e dominanti. E poi, vabbè, poi insomma ci sono un sacco di approfondimenti che non sono neanche tanto in grado di gestire. Comunque, rispetto al discorso dello Stato e della immanenza, ecco, dello Stato, Clastres ci dice che sia la storia che l'etnologia non ci offrono esempi di società dello Stato che sarebbero ridiventate società senza Stato. Cioè ci dice, in base agli studi storici e etnologici, sembra che ci sia proprio un punto che, una volta superato, non dia più la possibilità del ritorno, un passaggio a senso unico dal non Stato allo Stato e mai nell'altra direzione. E poi dice, lo spazio e il tempo, quell'area culturale o quel periodo della nostra storia, ci offrono lo spettacolo permanente della decadenza e del degrado in cui sprofondano i grandi apparati statali. Lo Stato può crollare, frammentarsi in signorie feudali qui, in podestà locali là, ma la relazione di potere non scompare mai. La divisione essenziale della società non si risolve mai. Non si compie mai il ritorno alla fase prestatale. Perché la morte dello Stato è sempre incompiuta? Allora, e ritorna però al discorso delle società senza Stato. Beh, intanto una parentesi. Guarda caso a scuola, mi viene in mente rispetto alle popolazioni proprio mesoamericane, si studiano gli aztechi, maya, eccetera, ma si guardano bene dal farti studiare anche all'università raramente, cioè se fai antropologia, ma altrimenti si guardano bene dal farti studiare le società senza Stato. Allora, ci dice Pierclastre, le società primitive rifiutano le relazioni di potere impedendo che si realizzi il desiderio di sottomissione, quindi vanno a lavorare sui desideri, non solo, diciamo, sui comportamenti o sui fatti. Il potere esiste solo se lo si esercita effettivamente. Poi il desiderio di potere trova modo di realizzarsi solo se riesce a suscitare l'eco favorevole del suo indispensabile complemento, il desiderio di sottomissione. Le società primitive, in quanto società indivise, impediscono al desiderio di potere e a quello di sottomissione di realizzarsi. Sono macchine sociali rette dalla volontà di permanere nel proprio essere indiviso, che si istituiscono come luoghi di repressione dei cattivi desideri. All'immanenza del desiderio di potere e del desiderio di sottomissione, e non del potere in sé e della sottomissione in sé, le società primitive oppongono il si deve e il non si deve della loro legge. Non si deve cambiare niente del nostro essere indiviso, non si deve permettere che si realizzino i cattivi desideri. Quindi non c'è una negazione dell'immanenza del desiderio di potere, del desiderio di sottomissione, ma una negazione del potere in sé e della sottomissione in sé, lavorando appunto sull'impedire che si instaurino questi desideri. Poi ci dice insomma anche delle sanzioni, cioè se per avventura uno degli uguali che compongono le comunità meditasse di realizzare il proprio desiderio di potere, di investirne il corpo sociale, a quel capo voglioso di comandare, la tribù, lungi dall'obbedirgli, direbbe: tu, uno degli uguali che noi siamo, hai cercato di distruggere l'essere indiviso della nostra società proclamandoti superiore agli altri. Tu che non vali più degli altri, d'ora in poi varrai meno degli altri. E quando un capo vuole fare il capo, lo si esclude dalla società e lo si abbandona, e se si ostina si può arrivare a ucciderlo. Esclusione totale, estirpazione radicale. Allora, ritornando dalle società senza Stato alle società storiche, quindi con lo Stato. Malencontro, appunto, evento malaugurato, succede qualcosa che impedisce alla società di mantenere nell'immanenza e quindi nella non realizzazione il desiderio di potere e quello di sottomissione. Entrambi emergono alla realtà e vengono esercitati in un corpo sociale diviso, a quel punto composto da diseguali. E poi appunto Cluster ritorna alla dirompenza, diciamo, alla forza di questo pamphlet scritto da un adolescente praticamente, Etienne de la Boetie, dice, cioè prima ci diceva, no, che è uno scritto virulento che addirittura paragona Etienne a Rimbaud, e lui dice la sua riflessione, Lastre ci dice, la sua riflessione sfugge a qualsiasi tentativo di inquadrarla nell'epoca. Non è un pensiero ordinario, in quanto si sviluppa proprio contro quanto c'è di rassicurante nell'evidenza insita in qualsiasi pensiero ordinario. È dunque un pensiero solitario, quello del discorso, un pensiero rigoroso che si alimenta solo del proprio movimento, della propria logica interna. E poi insomma, cioè quindi in questo essere un pensiero non ordinario e rigoroso e solitario anche, relativo, quindi non storico, non diciamo storicizzabile, ecco. In questo sta anche la forza che arriva fino a oggi, insomma, e che ci stimola a ragionare su queste cose e anche ad agire, no? Anche all'interno, anche chi come noi non vuole lo Stato e vorrebbe, cerca di vivere, di creare delle gruppi di affinità, dei gruppi di affinità, delle comunità di affinità senza Stato, cioè dove le regole dello Stato non valgono, ma valgono appunto dove non c'è dominio e sottomissione, ma si sa che insomma dominio e sottomissione o comunque gerarchie e così strutture di potere, prevaricazioni, emergere insomma di strutture di potere è qualcosa che appunto aleggia sempre, perché come si diceva prima, siamo educati a questa divisione tra dominati e dominanti, e quindi siamo abituati storicamente a questo. Diciamo che questa condizione è talmente pervasiva che bisogna continuamente lottare contro questa tendenza, no? Quindi appunto tutte queste riflessioni, per come la vedo io, sono molto interessanti, molto utili anche a noi. E poi appunto Cluster dice insomma che comunque sì, questo giovane filosofo, scrittore, magistrato balengo, anche un po' balengo, della metà del 1500, conosce, no? Cioè nasce in quel periodo lì in Francia, quindi conosce, ha fatto studi classici, quindi conosce, diciamo, siamo in pieno Rinascimento, quindi comunque conosce la cultura greca, la cultura latina, però siamo anche nel momento della riforma, quindi dell'emergere anche delle eresie, e siamo anche nel momento in cui diciamo inizia la colonizzazione, inizia la tra virgolette scoperta, iniziano i viaggi, diciamo, verso l'America, l'altro mondo, e sicuramente sì, insomma le imprese dei conquistadores sicuramente Etienne de la Boetie conosce queste cose, perché siamo insomma tra l'altro nella società francese c'erano comunque rapporti, no? Quando lui nasce, quando lui vive, rapporti, anche se magari l'attività delle colonie non era ancora così intensa in quel secolo lì, però c'erano comunque rapporti con le terre di conquista, diciamo. E probabilmente appunto nel 1548, quando l'autore scrive questo pamphlet, lui viene colpito particolarmente dall'esistenza di queste popolazioni senza Stato, appunto, cioè viene a sapere dell'esistenza, comunque deduce l'esistenza di queste popolazioni senza Stato e ne viene colpito, e quindi da qui insomma probabilmente c'è un influsso rispetto al suo pensiero. E sì, ci dice appunto, per usare le parole di Cluster, come avrebbe potuto non essere colpito dall'immagine che già da molti anni dipingevano i viaggiatori di quelle genti novissime, di quei selvaggi americani che vivevano senza fede, senza legge, senza re, di quei popoli dove ciascun uomo è senza imperio e signore di sé medesimo. Bene, insomma, quindi sì, bon, poi vabbè, poi Cluster continua dicendo altre cose, cioè ritorna ai suoi studi sui Guarani, questa cosa della parola, il fatto insomma la parola che è sostanza comune agli dèi e agli umani, vabbè, parla insomma delle sì, della cultura guaraní, di quello che loro, e vabbè, questo ci porta fuori. No, io volevo dire una cosa ancora su queste cose qua che mi ha colpito. Allora, se vi leggete il discorso della servitù volontaria, oppure se andate ad ascoltare l'audiolibro, che comunque come primo approccio magari, e che trovate in rete, come primo approccio è comunque interessante, chiaramente ci sono delle cose, dicevo all'inizio, ad esempio si parla di... leggo una frase: sotto i tiranni la gente diventa facilmente vile ed effeminata. Chiaramente c'è, e questa cosa stride, perché da un lato c'è questa roba della di essere contro l'uno che sopraffà, di essere, diciamo, sì, di essere contro il dominio e la sottomissione. Dall'altro lato non c'è sì, c'è questo discorso: effeminare vuol dire indebolire, no? Quindi dal punto di vista, diciamo, della controstoria delle donne, c'è questo grande buco, insomma. E infatti mi viene da dire anche Cluster, questo non lo nomina, però mi viene da dire sì, ma vive lui anche nel momento in cui inizia e si afferma, diciamo, la guerra, la caccia alle streghe, no? E quindi si afferma tutta questa persecuzione verso le donne, e prevalentemente verso le donne, e che sono portatrici appunto di una cultura popolare non statale, non capitalista, cioè nel momento in cui appunto comincia ad affermarsi il capitalismo, è una cultura popolare che sfugge, diciamo, alle maglie dello Stato, e lo sterminio di questa cultura di lotta, perché appunto c'è, cioè, di resistenza e poi di lotta, perché comunque anche tutte le rivolte degli eretici, dei movimenti eretici, ma anche le rivolte popolari che ci saranno tra 500 e 600, le donne sono in primo piano. Questa parte, diciamo, non compare, no? Non compare nemmeno nella riflessione di Cluster, ed è una roba abbastanza, io ammetto l'ignoranza, nel senso che magari magari poi in realtà ci saranno altri scritti dove queste cose compaiono, ad esempio nella società contro lo Stato, ci parla anche delle società, Cluster ci parla anche delle società dove la poligamia viene esercitata dalle donne, non dagli uomini, cioè ci sono donne che hanno più mariti, società in cui le donne hanno più mariti, e quindi non c'è la classica, quindi poliandria, non c'è la classica struttura, diciamo, della poligamia, per cui i maschi hanno più mogli, no? E fa tutta un'analisi anche, insomma, di queste società, delle strutture matrilineari, insomma. Però ecco, questa roba qua la lascio lì come punto da approfondire, diciamo, questo buco per il quale non si affronta tra i vari riferimenti il discorso della caccia alle streghe. Yeah. E sfumo un attimo anche per ricordare che i brani che stiamo ascoltando tra un intervento e l'altro è una band spagnola di Barcellona, e loro è esistita nel primo decennio degli anni 2000, circa 10-15 anni fa, e si chiamano Infame. Bon, allora adesso mi pare che sono le 21:13 di giovedì 15 maggio, quindi così non posso affrontare, avevo in mente un'altra cosa anche, ma non importa, facciamo la prossima volta. E volevo appunto dire due parole sugli aggiornamenti sulla condizione di Alfredo Cospito. E dalla Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali ci arriva appunto la notizia di questo inasprimento della sua condizione di reclusione. Beh, intanto ricordiamo che sono 3 anni che Alfredo è al 41 bis, perché era al maggio del 2022. E allora l'inasprimento consiste nel blocco praticamente totale della corrispondenza sia in entrata che in uscita, nell'impossibilità di accedere alla biblioteca interna del carcere, anche se Alfredo aveva avuto l'autorizzazione dalla direzione. E poi c'è questo blocco di libri pur che sono stati regolarmente acquistati in libreria tramite il carcere, e anche di altri beni, l'avevamo già detto tempo fa, come farina. Hanno tirato fuori la questione che la farina è un materiale infiammabile, e indumenti. E, allora, c'è l'ipotesi di un inasprimento vendicativo in seguito alla condanna in primo grado di Del Mastro per la rivelazione del segreto d'ufficio. E poi c'era rispetto a questa ipotesi di inasprimento vendicativo, c'è anche l'altro elemento delle dimissioni a fine 2024 del direttore del DAP Giovanni Russo, che aveva diciamo testimoniato non proprio a favore di Del Mastro. E anche il ritorno al comando della sezione 41 bis di Bancali, dove Alfredo è detenuto, del graduato dei GOM che era stato trasferito proprio per il suo coinvolgimento nella faccenda delle intercettazioni. Comunque i tempi sono quelli che sono. Compagni e compagni della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali rilanciano l'appello a inviare corrispondenza ad Alfredo utilizzando sistemi tracciabili di spedizione raccomandata, ma è sufficiente, non serve la ricevuta di ritorno, comunque raccomandata, oppure posta 1. Allora è importante scrivere, è importante scrivere perché comunque insomma per comunicare vicinanza, per far sentire appunto affetto e solidarietà ad Alfredo, ma è importante anche perché mandando le missive con questi metodi tracciabili e poi inviando la foto o la scansione delle ricevute o dei tagliandini, insomma con i codici, alla Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, la Cassa gira questi documenti agli avvocati, e così gli avvocati possono fare ricorso, perché questo blocco della corrispondenza e l'entrata in uscita non è cosa che si può fare, cioè è un abuso, quindi è possibile fare ricorso ed è giusto fare ricorso. Allora io vi ricordo l'indirizzo di Alfredo Cospito per scrivergli: Alfredo Cospito, Casa Circondariale Bacchiddu, strada provinciale 56 numero 4, località Bancali 07100 Sassari. E poi potete inviare le ricevute, appunto i tagliandini che vengono, la ricevuta della raccomandata oppure i tagliandini della posta 1, alla la scansione, potete inviare a all'indirizzo cassa antirap alpi tutto attaccato chiocciola autistici.org. Scriviamo, non importa, anche se magari anche se non si è mai conosciuto Alfredo di persona, è importante non abbandonare, insomma, questo compagno e sì, dimostrargli vicinanza in ogni maniera. Quindi scriviamo il più possibile. They pray for the deaths of those who speak of a revolution. They keep us at each other's throats while we still pay the tax bill. Bene, adesso alla fine di questo brano, che tra l'altro in sottofondo ne è già partito un secondo, volevo appunto annunciare questa band. Loro sono statunitensi, gli Anti-Flag, dal loro album Underground Network. Più che altro volevo presentarli perché durante tutti gli interventi abbiamo ascoltato sempre loro, anzi vi svelo questo segreto, questa mia verità: due brani li abbiamo mandati una seconda volta, ma probabilmente, insomma, il volume minimo l'abbiamo tenuto come sottofondo, mentre, come ho detto, invece tra un intervento e l'altro avevamo ascoltato gli Spagnoli Infame. Time. Bene, questi, come avevo detto in precedenza, sono gli anti-flag, e ora invece siamo un po' sulla fase conclusiva della trasmissione, manca poco più di 5 minuti alle ore 21:30. E questo è Zartis Magnetics, stiamo trasmettendo da Udine come tutti i giovedì da Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30, ma ora andiamo invece all'ascolto di questa band di Portland nell'Oregon. Loro sono i The Comp e dal loro album uscito nel 2022, dopo insomma questo loro primo album del 2022, Condemned to Hurt, è uscito dopo un paio di 7 pollici. Comunque una band che si è formata tra all'incirca il 2015-2016, e ci ascoltiamo uno o due brani, vediamo quanto riusciamo, insomma, e The Comp. Bene, lasciamo in sottofondo questi The Comp, band dall'Oregon, esattamente da Portland, l'album datato 2022, primo album per questa band, Condemned to Hurt. E siamo ormai anche giunti al termine di questa trasmissione, che viene trasmessa, insomma, viene condotta ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Il programma è Zardins Magnetics e anche oggi, giovedì 15 febbraio 2025, ricordo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Anzi, come di consuetudine, vi leggo, insomma, vi detto anche i nostri contatti se volete scriverci o quant'altro. Tramite posta elettronica dovete scrivere alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci tramite forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121, ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste, codice di avviamento postale 34121. Bene, noi ci risentiamo al prossimo giovedì, quindi salutiamo tutti, sempre dalle ore 20 alle 21.30 in diretta, e salutiamo anche chi ci ascolterà domani, venerdì 16 febbraio, dalla web radio Radiazione, dalle ore 17, oppure su Radio Eustachio dalle ore 11, sempre domani, venerdì 16 maggio 2025. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, vi lascio con un ultimo brano che forse dovrò sfumare, di questi The Comp. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.